Allora, intanto buonasera, benvenute a tutte le signore e signori, grazie per il come. Siamo qui in questa sede intima, come la chiamiamo noi, tra i libri, tra gli scaffali, per dare di nuovo il benvenuto a Giacomo Sartori, un amico di lunga data della biblioteca, e ad Alberto Faustini, anche lui un amico di lunga data della biblioteca. Mi fa piacere rivederli entrambi qui con noi. L'occasione è un nuovo libro di Giacomo Sartori, Coltivare la natura. Questa volta appunto viene presentato un'opera, un libro che esce un po' dalle righe di quello che noi abbiamo finora conosciuto di Giacomo Sartori come scrittore. Si parlava prima con Mirella dell'Anatomia della battaglia, ma abbiamo letto Tritolo, l'abbiamo portato anche alla radio, alla RAI, poi insomma sono stati sempre dei romanzi molto intensi, molto coinvolgenti e profondi, che richiedono anche una lettura molto partecipata e molto, diciamo, coinvolta. Ecco, non è uno scrittore semplice, ecco, devo dire, Giacomo, è una persona che riesce a introdurti e portarti dentro, ti trascina dentro in un vortice di emozioni e di sensazioni veramente molto particolari. E a me è piaciuto in particolare Tritolo, posso dirlo, non è politicamente corretto, vero? Però no, insomma, anzi, a Bolzano fa un certo effetto. Però devo dire che ha saputo raccontare una storia molto difficile, ecco, e contestualizzandola in una maniera molto, ecco, particolare, e devo dire mi è piaciuto molto. Anche perché l'ho vissuta marginalmente, nel senso che insegnavo all'epoca allo Johanneum, e quindi ci siamo trovati da un giorno all'altro in un campo di battaglia, ecco, col preside che ci invitava a stare chiusi dentro e non affacciarci alla finestra, insomma, non, ecco. E poi di lì è successo quello che la cronaca ci ha raccontato. Bene, allora, questo libro l'abbiamo anche accolto molto volentieri, come tutte le cose che ci propone Giacomo Sartori, anche perché si inserisce questo proprio in un percorso che stiamo facendo da anni legato all'Agenda 2030. Giorni fa abbiamo presentato un altro libro dedicato agli aspetti sociali, all'equità, alla parità di genere, al rispetto per le persone. Questa volta viriamo sull'ambiente e insomma di qui andremo avanti sempre ogni tanto cercando di offrire degli spunti di lettura legati al tema dell'Agenda 2030 e di questi impegni che siamo chiamati tutti a rispettare. Abbiamo preparato una vetrina, però ci sono anche delle copie del libro eventualmente da comprare, da acquistare, e la vetrina invece l'abbiamo dedicata proprio ai libri che ha scritto Giacomo Sartori e anche ad alcuni libri che sono legati a questo tema di questa sera. Alberto Faustini, lo conoscete, è un grandissimo promotore di cultura, oltre che un grandissimo giornalista che stimo tanto, tantissimo anzi. E, devi dire che era, ma è lo stesso. No, noi viviamo presente. Scherzo. E quindi in questi anni generosamente ci ha accompagnato e ci accompagnerà, mi auguro ancora, nel far scoprire, nell'accompagnare le persone a conoscere la biblioteca, a imparare a leggere sempre cose nuove, a trovare degli spunti, dei riferimenti, dei ganci che possono essere utili nella nostra vita di tutti i giorni per cambiare la prospettiva, per cambiare anche così il modo di vedere le cose, no? Crescendo sempre all'insegna della cultura e, lasciatemelo dire, della libertà, anche perché poi in questi giorni si festeggiano tante belle feste per tutti quanti noi, delle feste che sono il simbolo della democrazia. Io con questo vi ringrazio, veramente, e mi fa tanto piacere vedere tante signore, perché anche questa gentilezza e questa presenza femminile nella biblioteca è per me un grande segnale. E grazie, ci vedremo. Grazie Valeria, troppo gentile. Non volevo interromperti, mi piaceva che andassi avanti. No, scherzo. No, la cosa che mi chiedevo invece, se dato che è un ambiente intimo, siamo fra i libri, sarebbe bello che veniste in prima fila. Io non interrogo di sicuro, ma penso che anche Giacomo non farà domande trabocchetto, che è più bello, anche perché così c'è anche un problema. Secondo No, la signora non ha studiato, però nel secondo banco sa che non interroghiamo. Era bella, venite avanti. Mi sembra più bello anche perché bellissimo. Parlando appunto senza microfono, se ci si sente meglio, è più bello. Già ha urlato abbastanza ieri. Sì, no, io, ma, lei scherza, ma davvero, cioè, io non riesco a urlare, cioè, è più forte di me. Cioè. No, perché voleva stare senza microfono in questa presentazione, però lui, l'autore, gridava. Io non sono capace di gridare, mi manca il file. Così abbiamo creato un po' di subbuglio in questo luogo. Allora, due o tre cose. Parto da Tritolo perché mi piace che Valeria l'abbia citato, perché in realtà ci dà l'idea del modo di scrivere di Giacomo, che è sempre laterale. Cioè, noi siamo quasi sempre portati a guardare la storia con gli occhi direttamente, di petto mi viene da dire, a prendere la storia. Lui quasi sempre si posiziona da un'altra parte. Direbbe Mazzacurati la giusta distanza, che è tipica del buon giornalista, però si mette in un luogo nel quale vede passato, presente, cercando sempre di non farsi contagiare o contaminare, perché quasi sempre la storia è raccontata o dai vinti, ma prevalentemente dai vincitori, ma anche quando c'è una storia dei nostri luoghi, è quasi sempre una storia raccontata attraverso un filtro, no? Il filtro di quello che crediamo, di quello che pensiamo. Per esempio, perché ha stupito tanto la scrittura della Melandri? Ha stupito tanto perché ha guardato il nostro mondo con gli occhi tedeschi da italiana, perché allora per quello c'è un po' sconvolto. Eva dorme, è un po' però quello che fa Giacomo invece in tutti i libri. Cioè, si mette sempre in una posizione diversa ed è molto importante. Lo dico perché anche in questo libro, che io effettivamente ho affrontato come un saggio, come una cosa diversa, in realtà si vede che l'ha scritto un autore di romanzi. E si vede anche che nel suo modo di raccontare le cose che sa, perché in questo caso anzi se la prende in più pagine con chi parla senza sapere, anche con qualche scienziata, perché effettivamente spesso c'è qualche persona che pensando io sono un famoso fisico, la dico al maschile così è più semplice, e per cui posso parlare di qualunque cosa, ma non è così, insomma, ci sono persone che conoscono e persone che non conoscono le cose di cui parlano, per cui anche nell'incedere c'è ogni tanto il romanziere Sartori e non solo in questo caso lo studioso o il conoscitore della materia. Certo, torna a Firenze ai suoi tempi universitari, alla sua scelta di legare il suo studio alla terra, per cui è importante questo contatto con la natura, ma un contatto ancora di più con la terra. È bella la prefazione in questo senso di Petrini, ma io volevo farti dire, o se vuoi anche farti leggere, questo inizio, cioè tu che scopri questo rapporto con la terra e con la natura grazie a un trasloco. Di solito è viceversa, nel senso che molti di noi magari lasciano il paesello, la natura, per arrivare nel cemento urbano. Tu invece fai un percorso opposto, cioè la famiglia, quando tu sei piccolo, lascia il cemento della città per andare sulla collina in questa vecchia casa di famiglia, ed è lì che scopri un mondo nuovo e ti rapporti con un mondo nuovo. A me piaceva fare un po' come si fa nel mondo tedesco, iniziare con l'autore che si legge e, sì, poi, entrare, diciamo. E poi entrare nelle tue parole. Allora, che poi all'inizio è il prologo del libro, la mia vita con la terra. Quando avevo 6 anni la mia famiglia ha traslocato nell'appartamento che avevamo in affitto, dall'appartamento che avevamo in affitto in città, alla molto malmessa villa di mia nonna in collina. Erano solo una manciata di chilometri di distanza, ma era un altro mondo che odorava di terra, di fermentazioni, di fuochi, di erba. Un complesso meccanismo dominato dalla vegetazione, addomesticata ma pur sempre fieramente autonoma, con la sua energia linfatica e i suoi cicli, e dove subordinatamente c'erano muri, viottoli, boschetti, piccole frazioni con case coloniche e qualche villa signorile, e dove si muovevano a loro agio animali di varia taglia e indole, e anche naturalmente, pur essi di casa e anzi profondi conoscitori di ogni decimetro, abitanti umani, con le loro abitudini e la loro lingua. Lì io ero straniero. Sapevo intrufolarmi e farmi accettare, tessendo amicizie intrinsecamente asimmetriche, come ho poi fatto tutta la vita, ma restando un essere alieno. questa funzionale coabitazione di natura ed esseri viventi traeva la sua forza dalla continuità e dalla ripetizione, era radicata in un passato che si avvertiva molto antico, era evidente che ogni più piccolo elemento affondava nel tempo, traendo una sua invincibile inerzia ribadita dalla lingua e dai gesti. E proprio per questo le novità deflagravano con una dirompenza di meteore, perché in realtà tutto stava cambiando. Un'estate è comparsa una falciatrice a motore, pilotata da un ragazzino appena più grande di me, seduto come un motociclista, che con le sue due larghe chele di aragosta sbrigava in 2 ore il lavoro che richiedeva molte giornate di fatica con la falce. E l'anno dopo è comparso un trattore a cingoli Fiat che avanzava minaccioso e ostinato con un frastuono di ferraglia e con le sue unghie dure incideva le carreggiate, facendo tremare la nostra vecchia casa come ci fosse un terremoto. Da un giorno all'altro sono scomparsi, subito non ci ho fatto caso che le due cose erano legate, i buoi, diventati ingombranti e desueti. D'improvviso basti, finimenti, fruste aratri di legno erano reperti impolverati, quasi curiosi. E avanti. Però così capite che c'è il romanzo, no? Cioè, sentite subito che non c'è un saggio, cioè le chele, no? Cioè, il deflagrare delle meteore, cioè, si capisce subito che il linguaggio è un'altra cosa. Allora, Carlin Petrini dice: rapporto agricoltura e fertilità, qualcosa si è inceppato. Giacomo. Sì. Allora, magari due parole, nel senso che io sono agronomo e ho sempre fatto l'agronomo, mi sono sempre occupato di terra. Però fino come a qualche... copertura, no? Come copertura, sì, vero. E anche come per guadagnarmi la vita. E diciamo, io ho sempre mantenuto le due attività molto, molto separate, fino al Covid, lì un po' è tutto saltato. Infatti lo dice alla fine, sì, col Covid... Mi è venuta voglia di intervenire, come dire, di utilizzare il mio sapere non solo nel campo scientifico, ma di provare a comunicarlo anche fuori, e quindi questo libro, anche altre attività che faccio adesso, mi occupo di progetti tra arte e scienza, proprio perché continuo il mio lavoro puro di agronomo, però anche mescolo un po' le carte. Ecco, e si parla moltissimo di nuove tecnologie. Quando si parla di agricoltura si parla di nuove tecnologie. No, ma adesso l'agricoltura, troveremo delle nuove, l'intelligenza artificiale, delle sementi, nuovi OGM, troveremo qualcosa che ci salva, no? Abbiamo questa fiducia cieca nelle nuove tecnologie. E che è vero, speriamo che ci sia un apporto anche tecnologico, però chi conosce l'agricoltura sa che in realtà i problemi sono molto più terra a terra. Poi noi abbiamo sempre presente la nostra agricoltura, però l'agricoltura, se prendiamo l'agricoltura del pianeta, le agricolture che prevalgono sono quelle molto, molto più arretrate della nostra, no? Ci sono agricolture molto diverse nelle varie regioni del pianeta, ed è vero che la nostra è molto tecnologica, però l'agricoltura in generale non è solo tecnologia, no? Perché proprio c'è questo legame con la natura, si coltiva la natura sostanzialmente, si interviene nei cicli naturali, perché la terra è un qualcosa di naturale, qualcosa di vivo che ha dentro molti batteri, molti funghi, molti animaletti, tutti i tipi che la fanno funzionare, e noi cerchiamo di farla, come dire, di metterla a frutto, di farla funzionare come torna comodo a noi, però fino a un certo punto si riesce a pilotare, no? come un corpo umano, noi siamo, lo sappiamo, se abbiamo una simbiosi tra corpo e batteri, perché abbiamo chili di batteri dentro di noi, e non è che con un corpo umano si possa fare qualsiasi cosa, sì, si può cambiare l'alimentazione, però ci sono dei limiti proprio costituiti dalla base naturale, e questo si dimentica, no? E quindi e uno, per finire di risponderti, uno dei problemi forse il problema principale dell'agricoltura, da che mondo è mondo, cioè dal neolitico, perché l'agricoltura, come sappiamo, è un fatto molto molto recente rispetto alla storia dell'uomo, è quello di restituire al suolo quello che gli togliamo, perché noi raccogliendo delle mele, raccogliendo i fagioli, quello che raccogliamo, portiamo via sostanza organica e naturalmente è un ciclo al quale se portiamo via qualche cosa, ci va bene 10 anni, ci va bene 10 anni, ma dobbiamo in qualche modo restituirlo. E da qualche decina d'anni questa restituzione avviene sotto forma di concimi chimici che fanno funzionare, che mi permettono di coltivare ancora, però il sistema continua a impoverirsi, no? E è andata bene per un certo periodo di anni, però perché c'era ancora un capitale residuo, no? E adesso questa cosa sta, e ci si dimentica che questo non è un fatto tecnologico, perché nel senso che questa sostanza organica la portiamo sotto forma di letame, perché il letame, diciamo, si usa, è entrato in agricoltura verso l'anno 1000, no? nel Medioevo, e è sempre stato fondamentale, è sempre stato lo strumento. Cioè, la tecnologia di allora era il letame. Cioè. Beh, sì, e anche quella di adesso, perché noi cosa possiamo? Oppure possiamo portare compost, no? Va bene? O possiamo portare abbiamo fatto dei passi dietro, perché l'agricoltura ha sempre utilizzato deiezioni umane, no? Da qualche tempo noi le deiezioni umane le sprechiamo in qualche modo, no? Perché i sistemi che ci siamo inventati non permettono di riciclarle, lì è una perdita enorme, no? Ma i sistemi, come dire, non possiamo girarci intorno finché vogliamo con l'intelligenza artificiale, così, ma il problema principale dell'agricoltura è questo, no? Come io restituisco quello che ho preso, no? Petrini scrive tante cose carine a prefazione, ma c'è una che mi colpisce più di altre: che bisogna iniziare a camminare sulla terra o riniziare a camminare sulla terra anziché calpestarla, no? Che è una metafora che mi piace molto, perché tendiamo oggi tutti a calpestarla, non solo così come dicevi. Magari fai anche, visto che parlavi di questo, l'esempio della Val di Non, visto che nel libro citi la Val di Non, com'è cambiata questa terra di mele che è così vicina, dove molti altoatesini vanno. Sì, il problema è che la Val di Non è l'esempio di una coltivazione super super intensiva e super impattante, però l'agricoltura fa dei danni che non sono poi così evidenti, perché se uno passa in Val di Non è anche molto bello, una bella giornata di sole, i paesini sono belli, sì, appunto adesso la fioritura dei meli anche industriali è magnifica, no? Come dire, anche uno ci passa l'estate, è tutto verde così, e non si immagina che i terreni sono completamente avvelenati, che le falde sono, si pensa che questi problemi li abbiano solo in Pianura Padana, o li abbiano, no, si pensa sempre, e non si immagina che anche qua non ci sono più insetti, perché tutti gli insetti muoiono, non ci sono più i pronubi che permettono la fecondazione dei fiori, senza la quale noi siamo fregati, cioè non, si pensa sempre, come dire, non sono danni così, purtroppo, no? E uno pensa, beh, qui fanno anche, perché sono anche persone che cercano di fare del loro meglio, non è che, come dire, i campi sono ben tenuti, cioè bisogna vedere anche le cose, però è un problema che è un sistema completamente insostenibile, perché anche lì l'agricoltura della Val di Non fino agli anni 50 era un'agricoltura promiscua e così, adesso si è intensificata con i meli, però il terreno è talmente impoverito che noi siamo la terza quarta generazione di meli, no? Perché poi hanno dei cicli adesso molto molto brevi, e il terreno non ha più vita, non viene più niente, cioè, è veramente una cosa drammatica, per cui adesso cercano di utilizzare anche loro l'etame, si cerca di cose, però insomma sono problemi grossissimi che non danno così nell'occhio. Una fabbrica che inquina la vedi di più, non vedi, so, il fumo, vedi il fumo, e invece la vegetazione è sempre bella, perché la vegetazione, anche se è un albero è tutto potato, tutto squadrato, però è sempre un albero, è sempre la vita, no? È sempre con la sua bellezza, quasi. Il libro si intitola Coltivare la natura, ma tu a un certo punto scrivi che la natura non esiste, è un concetto inventato di recente, che è una frase abbastanza forte. Sì, no, come dire, non è, come dire, ormai in campo antropologico è assodato che la natura non esiste, no? Che ce la siamo inventata col razionalismo del 600, abbiamo detto noi siamo una cosa e quello che è fuori di noi lo chiamiamo natura, ma noi dove siamo? No, è una separazione dove la natura non si comprendeva, era tutti gli altri animali, l'uomo non è un animale e tutto ciò è stato creato da qualcuno, ma è fuori da noi, mentre ci siamo accorti che noi facciamo parte della natura, perché siamo intimamente legati, proprio perché abbiamo dentro dei batteri, perché abbiamo bisogno, facciamo parte dei cicli, respiriamo dei gas che fanno parte dei cicli, noi in tutti i sensi discendiamo da altri animali, quindi facciamo e viviamo con altri animali, viviamo nello stesso spazio, no? C'era questo mito della foresta vergine, ci si accorge che non esiste foresta vergine, no? Non c'è neanche un centimetro vergine al mondo, la foresta vergine era coltivata, noi non ci accorgiamo che era coltivata, ma era costantemente coltivata a modo loro. Da popolazioni vergini. Da popolazioni vergini che raccoglievano e selezionavano le piante. Hai detto che era comoda la poltrona, ma non la libreria. Scusa, c'è un ferito. Un ferito. Tutta la foresta amazzonica è coltivata da millenni e millenni, no? Come dire. E quindi la natura e questo separarla, come dire, è stato anche, come dire, il momento che l'ho separata, io posso farci quello che voglio, no? È un oggetto che io cerco di sfruttare, di tirarci fuori il massimo, è stata proprio, come dire, questa separazione, uno strumento filosofico che ci ha permesso di fare tutto sulla natura, dice, tanto noi siamo, non abbiamo, e invece adesso ci accorgiamo che assolutamente noi siamo parte del sistema e che non possiamo ignorarlo. Ci fai una breve storia della fertilità, perché è molto curiosa la tua breve e antica storia e poi moderna, perché ci fa capire molte cose della terra. Beh, l'agricoltura è nata, a seconda delle zone, 8.000 anni, 9.000 anni prima della nostra era, da noi è arrivata molto più tardi, no? 5-6.000 anni prima, o 4 prima di Cristo, e sostanzialmente le prime forme erano taglia e brucia, che ormai sono diventate molto rare, no? Cioè, taglio un pezzo di foresta, lo coltivo per un anno o due, no? E poi mi sposto, lascio 50 anni, 60 anni, no? Poi c'erano altre forme di agricoltura nel delta della Mesopotamia, così. Però le forme principali erano queste, il taglia e brucia. Finché si è stato tagliato tutto, la foresta mediterranea sostanzialmente già prima, 500 anni prima di Cristo, era stata completamente un disastro ecologico, no? già stata completamente, perché con l'aumento della popolazione i cicli erano sempre più veloci, quindi il tempo di ripristino non era più sufficiente, e lì c'è stato qualche secolo di crisi, e adesso come facciamo, no? E dopo l'agricoltura è ripartita sul lasciare riposare il terreno, no? Coltivarlo con i cereali e poi lasciarlo a maggese. Il maggese è una forma di lasciare riposare, e dopo ritorno con quel sistema lì si è andata avanti sostanzialmente fino appunto all'anno 1000. Il grosso salto tecnologico dell'agricoltura è quello, che poi è il periodo delle cattedrali, no? La costruzione delle cattedrali, perché proprio questo sviluppo, grosso sviluppo dell'agricoltura ha portato a un grosso accumulo di ricchezze che ha permesso, e lì si è cominciato a utilizzare il letame, no? Si è visto che il letame funzionava molto bene per restituire e utilizzare il letame tecnologicamente non era facile, bisognava rinchiudere la notte le bestie in una stalla in modo da poterlo recuperare, ci volevano dei carretti per poter trasportare il letame dove serviva, tecnologicamente ci volevano molti capitali e molte scoperte, che magari già esisteva, i carretti esistevano ma solo per fini militari, insomma un grosso un grosso, e poi l'altro grosso salto, proprio per andare velocissimi, è il 700 con la rivoluzione agricola che nasce in Inghilterra, e lì si introducono le rotazioni agrarie, eliminando il maggese, cioè non lasciando più i terreni in riposo, che è una perdita di tempo, perdita di spazio, perdita di produttività, ma invece utilizzando le leguminose, introducendo le leguminose nel ciclo. Le leguminose sono le fave, i piselli, i fagioli, l'erba medica, no? che sono, hanno la proprietà di arricchire il terreno, perché apportano azoto. L'azoto, la maggior parte dell'aria che respiriamo è costituita da azoto, ma è un azoto che non è utilizzabile dalle piante, mentre le leguminose hanno dei batteri nelle radici che fissano l'azoto dell'atmosfera e riescono a trasformarlo nelle forme utilizzabili dalle piante. Quindi con questo sistema qua la produttività è aumentata enormemente. La rivoluzione, si parla di rivoluzione, proprio rivoluzione agraria, è stato un rivolgimento talmente grande che è arrivata in Italia, nel nord dell'Italia, nella pianura padana, agli inizi dell'Ottocento, mentre il sud è resistito con le sue col maggese fino al Novecento, e poi si è sostanzialmente arrivata dappertutto. E l'altro grosso passo enorme è quello che conosciamo, è quello del dopoguerra, dell'utilizzo dei concimi chimici, no? Che esistevano già dalla fine dell'Ottocento, in realtà, e già erano utilizzati nella prima parte del Novecento, però l'utilizzo massiccio è quella che viene chiamata la rivoluzione verde, no? Favorita e promossa dalla FAO, che ha avuto dei risultati spettacolari in termini di produzioni, che ha cambiato veramente la vita. Ha funzionato molto bene in Asia, in Africa non ha funzionato per niente, perché dipendeva dalle condizioni sociali, e quella veramente ha aumentato le produzioni di malattie. E parallelamente c'è stata il boom demografico che conosciamo, però ecco, sempre di più ci si accorge, in realtà c'era chi lo diceva fin dall'inizio, che quel sistema lì basato sui concimi chimici portava a un impoverimento dei terreni, no? Questo e i pesticidi portavano a dei problemi di inquinamento e quindi adesso siamo alla fine di questo ciclo e dobbiamo inventarci assolutamente qualcosa di nuovo, perché veramente abbiamo impoverito. Io cerco di essere positivo, sono positivo, però bisogna veramente, bisogna cambiare assolutamente rotta. Sì, di futuro, perché dedichi molte pagine al futuro, però tu parli a un certo punto al plurale di agricolture. Mm-hmm. Magari dici qualcosa, visto che uno dei miti di questo tempo è l'agricoltura biologica, tu parli di agricoltura convenzionale e agricoltura biologica. Mm-hmm. E sull'agricoltura biologica, insomma, affronti il tema da scienziato, per cui ci spieghi i pro e i contro. No, ma l'agricoltura biologica. Per l'agricoltura biologica si intendono due cose completamente diverse. Una è la filosofia dell'agricoltura biologica, che nasce sostanzialmente negli anni 20, 30, un po' in tutti i paesi, adesso non approfondiamo, e che diceva che sostanzialmente che bisogna coltivare in modo ecologico. Però anche la scuola agronomica italiana era assolutamente su questa. Fino agli anni 50 abbiamo un enorme agronomo che si chiama Draghetti, che era assolutamente su questa linea, no? Mentre poi ha prevalso quella della chimica sempre di più. Mentre l'agricoltura biologica adesso intendiamo un'agricoltura che rispetta, come dire, le norme che l'agricoltura biologica si è data, no? È una cosa molto diversa, perché riescono a rientrarci anche ditte che che non hanno niente a che fare con la filosofia dell'agricoltura biologica, che lo fanno per motivi semplicemente economici, cercano di giostrarsi bene in modo, ma il loro interesse è solo economico, quindi diciamo sono un po' due cose diverse. Però per esempio prendiamo l'Africa, no? Sono tutti d'accordo che il futuro dell'agricoltura africana è l'agricoltura biologica, un'agricoltura rispettosa dell'ambiente, vista la situazione, direi che nessuno tiene il contrario, no? Per noi è vista come una cosa di nicchia perché intendiamo qualche cosa biologica che sfona quei prodotti che sono anche piuttosto costosi, così. Però è diciamo, un po' di moda, possiamo dirlo? No, io non credo. No, io quando no, ecco, io proprio non sono assolutamente d'accordo. Lo scrivi, infatti, non sei d'accordo. No, prima una cosa serissima, la cosa biologica, adesso non abbiamo tempo di approfondire, ma nasce dai maggiori scienziati, dai più grandi agronomi, non nasce da delle teste calde, sia in Francia, sia in Germania. In Germania c'è anche quel filone più esoterico di Steiner, così, però sia negli Stati Uniti e soprattutto in Inghilterra, no? Dove forse il più grande agronomo del secolo, no? Lui si è recato in India, perché l'hanno mandato in India, e si è reso conto che questo negli anni 10, diciamo, del Novecento, e si è reso conto che le ricette che lui portava in India non funzionavano e che era molto meglio il modo di coltivare del locale, no? ma questo è veramente un grandissimo genetista, come dire, l'agricoltura nasce da biologica, da queste teste qui, dai più colti, dai più questa, e dopo naturalmente può essere un fenomeno anche, come tu dici, naturalmente della persona che non sa niente, che preferisce, però perché uno dovrebbe pagare di più? Perché non la vedo come. In Italia c'è molto questa cosa di considerarla una moda, no? Una moda, è vero che c'è molta più sensibilità, le mamme sono molto più sensibili in particolare a quello che danno ai bambini, quindi c'è questo fenomeno, no? che spesso comprano le cose biologiche per i bambini, che sanno che c'è una garanzia, no? E poi magari le abbandonano quando sono più grandi. Però non possono avvelenarsi, se non posso avvelenarsi ormai. Sì, più è fatto. Come dire, e poi mi sembra un bellissimo esempio, perché l'agricoltura biologica è stata veramente ostacolata in tutti i modi, pur venendo da queste teste molto, è stata veramente, sia a livello accademico, ma anche da noi, anche in Trentino, è stata veramente in tutti, e è riuscita a crescere. Cioè, le mode non sono così, è riuscita a crescere perché c'erano delle persone che ci credevano, che investivano. Quando tutti dicevano no, voi non riuscirete mai a coltivare senza pesticidi, no? Ma proprio lo dicevano, siete dei matti, siete dei cose, e loro hanno dimostrato che riuscivano, che non era facile, ma ci riuscivano, no? E riuscivano a convincere altre persone, è così che è cresciuta, sono riusciti a convincere dei consumatori, che cosa, e è cresciuta. Cioè, è chiaro che ci sarà anche qualche cosa di moda, però direi che l'unico vero movimento anticapitalista che io conosca, cioè il capitalismo, intendendo, qui viene fuori il rivoluzionario, cioè, c'è lui. No, il capitalismo dicendo capitalismo, questo nostro mondo che distrugge l'ambiente, diciamo, sì. questo, no? Che pensa al capitale e non pensa al capitale ambientale, diciamo, questo capitalismo economico, no? Che non pensa al capitale ambientale, no? che anche quello è un capitale, no? Direi l'unica forma di un qualcosa che funziona con principi diversi e che si è affermato anche sul mercato, Mi direi che quella, con tutte le sue pecche, no? Capito? Con tutte le sue pecche e gli aspetti di moda, probabilmente ci sono tante cose, dei suoi limiti, perché appunto. Però tutto sommato a me mi sembra un aspetto molto, molto virtuoso, anche incoraggiante, lo vedo un esempio anche per altri campi, no? Per come le cose possono partire dal basso. Io non ci credo che ci salveranno i nostri governanti, poi soprattutto i nostri, che l'ambiente proprio non sanno neanche che cos'è. In Europa votano sempre insieme all'Ungheria contro tutte le però diciamo. Tu dici che la rivoluzione la possono fare i consumatori più che la politica, no? Non solo il consumatore, tutti insieme, in maniera orizzontale, cioè che io credo, no, questa è proprio la mia, che poi forse il termine agricoltura biologica, appunto, abbiamo visto che è un termine un po' confuso, perché si intende sia la filosofia, chi ha questa visione ambientale, chi lo fa invece per, direi che invece il termine unificante è agroecologia vuol dire coltivare facendo attenzione all'ambiente, no? E pensando al futuro, no? Non penso solo al reddito di quest'anno, però mi può anche tra 10 anni bisogna che questo campo continui a produrre. E quella funziona quando orizzontale, quando io vado dal ricercatore e dico: io ho questo problema, me lo risolvi per piacere, lo risolviamo assieme, no? Perché io ho questo problema qui. Nella piana di Bolzano ho questo problema qui con la tal pianta, no? Vediamo come fa, e allora lì funzionano le cose, che è un po' il contrario invece di quanto fanno le grandi ditte, che ormai sono delle potentissime, che loro danno delle ricette, no? Ti creano il determinato prodotto per questo e per quello, però in realtà ogni piccolo territorio sono molto diversi, no? E per ognuno bisogna trovare la ricetta, gli ecosistemi sono tutti molto diversi, non esistono due ecosistemi che sono uguali, e allora in realtà l'astuzia è cercare di osservare bene come posso inserirmi o come posso coltivare quella cosa lì senza far danni e producendo abbastanza per sfamarci, no? A proposito di astuzie, parli della lezione degli orti, che gli orti ci raccontano delle cose, sì, anche nei diversi luoghi nei quali si fanno gli orti. Gli orti, non so, io avevo visto una stima della Coldiretti, adesso i numeri mi sono dimenticato, ma del tipo 4 milioni di orti in Italia, no? del tipo orti veri, no? Poi c'è chi ha le cose sul poggiolo e l'orto, la dimostrazione. Alcuni sono presenti. Senz'altro. E l'orto, la dimostrazione. L'orto è la cosa più intensiva che esista, cioè l'orto è molto più intensivo di qualsiasi cultura industriale, no? Perché proprio se calcolo quanta biomassa ci tiro fuori, non esiste, non ha paragoni l'orto. E uno può fare l'orto andando avanti all'infinito senza distruggerlo. Per me è proprio la dimostrazione. E poi l'orto bisogna stare attenti, bisogna osservare, no? bisogna guardare, bisogna adattarsi, bisogna un po' seguire, perché certe volte certe robe appassiscono e tu non capisci perché, e quindi ti adatti, no? E l'agricoltura è sempre stata questo, è sempre stata osservare, no? Osservare un po' con l'astuzia, un po' con l'esperienza. È molto una cosa molto empirica. Perché la natura la conosciamo, però fino a un certo punto, non è che conosciamo tutto, non possiamo prevedere i cambiamenti di tempo, tantomeno i cambiamenti climatici, no? E l'orto, per me, è proprio la dimostrazione che possiamo, che si può veramente domandare molto alla natura senza distruggerla. Come mai a un certo punto hai sentito il bisogno di scrivere una lettera al premio Nobel Parisi? E la domanda poi successiva, e ti ha risposto, e lui studia gli uccelli, come dire, il volo, invece tu parli da terra. Tutto ciò è nato alla fine del Covid, no? Quando si discuteva la nuova legge che regolamenta il settore biologico, che poi è passata, no? Intervenivano delle persone, tra cui il Nobel, Parisi, che peraltro un genio nel suo campo, nessuno. La professoressa Cattani, che è rimasta qua proprio. È anche lei meno un genio, insomma, molto intelligente, ma anche lei brillantissima. Però avevano uno spazio enorme, no? E sparavano contro l'agricoltura biologica, soprattutto contro la biodinamica, no? Che poverini, veramente fanno le cose bene. E però e con questa grandissima insofferenza dell'agricoltura biologica, e come se fossero nemici della scienza, no? E veramente non è vero. Non è vero, è la scienza che ha abbandonato l'agricoltura biologica, perché è partita in un altro, e adesso deve assolutamente ritornare, se vogliamo salvare qualcosa deve ritornare lì. Assolutamente l'agricoltura biologica ha bisogno di scienza, ha bisogno di innovazione, non, e queste persone sparavano fuori delle cose. È vero che l'agricoltura non è facile da conoscere dall'esterno, no? Per un fisico nucleare l'agricoltura è proprio il contrario, perché è tutta fatta di empirismo, e anche la professoressa Cattaneo è una genetista, i genetisti sono lì nel loro laboratorio, è come gli apprendisti stregoni, no? Fa ti, però dopo quella cosa che tu hai, un organismo che è geneticamente modificato, che hai fatto nel laboratorio, bisogna vedere che cavolo fa fuori, e fuori è un altro paio di maniche, perché è un ecosistema dove è tutto complicatissimo, l'interrelazione, la natura è veramente estremamente complicata, è anche imprevedibile, e quindi loro invece sono abituati a manipolare il genoma, e quindi pensano, come dire, un po' monta la testa, no? Perché uno faccio la cosa al pomodoro che resiste alla siccità, il pomodoro resiste alla siccità, è 40 anni che sento parlare del pomodoro alla siccità. No, sono morti tanti quei pomodori. No, e io spero che si arrivi a qualche cosa in quel senso lì, però in realtà il problema è che i meccanismi, la pianta si integra nell'ambiente in modi molto molto molto molto complessi, no? non sono rapporti, non c'è un gene che controlla la siccità e la resistenza alla siccità. Niente, no, non mi ha risposto, no. Gli ho scritto, gli ho visto questa lettera. Lettera morta, come no, si dice, lettera morta. No, deve essere anche un po' arrogantina, secondo me. Sì, perché a vederlo no, sembra una così no, brava persona, mite, però. No, non credo. Non è così, raffidarti dei Nobel. E a un certo punto, prima parlavi anche dell'Africa, e mi ha molto colpito questa intervista in cui tu, che mi riporti nel libro, in cui spieghi il problema delle sovvenzioni, no? Uno pensa che le sovvenzioni sono la risposta a un problema, invece le sovvenzioni hanno creato dei problemi. Sì, sì, poi la cosa che si sente sempre dire, la scusa, noi dobbiamo produrre tanto così non c'è più la fame del mondo, no? Cioè, la fame del mondo è legata a zone dove la gente non ha soldi, non c'è mercato, non può comprare le robe, non è il problema di noi possiamo produrre anche, possiamo... quello se non ce lo pagano, possono pagarlo, diciamo. Il problema è che noi produciamo, proprio perché distruggiamo tutto, produciamo a prezzi bassissimi, riusciamo a produrre a prezzi bassissimi. E le nostre agricolture sono molto sovvenzionate, l'agricoltura degli Stati Uniti è sovvenzionata quasi al 50%, in Europa siamo sul 25-30%, secondo i paesi un terzo, una cosa così, no? Vuol dire che gli diamo un sacco di soldi all'agricoltura, voi sapete nella PAC, no? nel bilancio europeo, i soldi che finiscono all'agricoltura è la voce maggiore, no? Cioè, e quindi noi riusciamo a produrre degli alimenti, del grano, a prezzi assolutamente irrisori, perché sono fatti con le macchine, sono aiutati dalle sovvenzioni e distruggono l'ambiente, perché è facile non mettere costi ambientali, diciamo, no? Se noi ci mettessimo dentro anche tutti i costi sarebbe tutto molto più costoso, e quindi inondiamo i mercati, e questo ha ucciso tutta l'agricoltura. È stato un colpo terribile con i nuovi allargamenti del mercato degli anni 90, no? Come dire, la scusa era, come dire, no, ma anche voi potete venderci, noi come dire, eliminiamo qualsiasi barriera in un senso o nell'altro, come dire, noi, però in realtà noi avevamo il grano da vendere, loro non avevano niente da vendere, e questo ha ucciso veramente tutte le, come dire, io cosa faccio, cosa sto lì nel mio campetto a fare 10 kg di arachidi se con mezzo dollaro mi compro un sacco di riso, non so come dire, mi compro, era questa, non aveva più le economie di tutti i paesi poveri sono completamente saltate, perché non era più competitivo, non era più competitivo con i loro mezzi, che non meccanizzati, però erano modi di coltivare assolutamente rispettosi dell'ambiente e che sfamavano le persone. Il problema è sfamare le persone, no? e quindi noi possiamo produrre quello che vogliamo, ma quegli 800-900 milioni che soffrono la fame, perché siamo ancora a quelle cifre lì, Non è quello il problema, non è che noi possiamo nutrirli così, andare lì, non sono neanche raggiungibili, noi dobbiamo dargli una zappa, perché spesso il problema è una zappa, noi non ci immaginiamo cosa sono l'agricoltura, o non so, veramente una cosa minima, non dico un trattore, anche una cosa manuale, strumenti manuali, ma già se riusciamo a dargli quello, come dire, cercate di coltivarvi le vostre cose, no? È quello che la fame nel mondo è soprattutto un fenomeno rurale, no? Sono contadini che muoiono di fame, no? Adesso sta aumentando anche la fetta della cittadina, no? Col fatto che le città diventano sempre più grandi, così. Però la fame del mondo è prevalentemente un fenomeno rurale, sono contadini che sono troppo poveri, e quelli lì, se noi vogliamo cose, non è producendo come pazzi e distruggendo tutto da noi, cose, è aiutandoli ma veramente, che spesso sono piccolissime cose, dandogli delle sementi adatte per loro, qualche cosa, aiutandoli in vari modi. Ma volevo finire, cioè tu alla fine nel libro lanci un appello, ed è un appello, devo dire, molto obiettivo, nel senso che noi dici basta consumare carne, però ci spieghi che se ne può consumare molto meno, ad esempio, e ci spieghi che in particolare la carne bovina, non consumando quella, potremmo davvero aiutare l'ambiente. Ci dai alcuni dei consigli che ci sono nel tuo appello finale? Sì, il problema è che tre quarti delle superfici che coltiviamo sulla terra sono per nutrire gli animali, siamo arrivati a queste cose qua, no? Perché, come dire, se io mangio un chilo di riso, vivo con quel chilo di riso, se lo do alla bestia, devo darne 8-9 chili per avere un chilo di carne, no? E quindi è un passo che mi porta a una resa molto, molto, molto minore. E non si tratta di eliminare la carne, se uno è vegetariano si rispetta, e anzi gli animali, come si diceva prima, sono assolutamente essenziali per il ciclo, perché abbiamo bisogno del loro letame, no? quindi va benissimo che ci siano gli animali. Però ci limitare, no? Però il 40%. No, ma sì, possiamo limitare, ne mangiamo troppa, non si può mangiare un po' meno di buona qualità, e veramente quello è qualche cosa che possiamo fare tutti, che quello può cambiare veramente. Se uno vuole fare qualcosa per l'ambiente, mangia meno carne, no? La mangia una volta a settimana, due volte a settimana, quando ricordo, ma perché, no? C'è questa cosa che la nostra dieta è cambiata negli ultimi anni, nessuno mangiava così tanta carne come noi, no? Cioè, come dire, non c'erano i soldi per comprarla, c'è stata un'epoca in cui non c'era, no? Chi mangiava tanta carne erano i cosi francesi, in particolare i regnanti e inglesi, e avevano delle malattie, malattie terribili, no? Per dire, secondo me una delle cose, no, non secondo me, lo dicono un po' tutti, quella è la prima cosa, che se uno vuol fare qualche cosa, secondo me è proprio quello, e cercare di acquistare di acquistare prodotti, cioè poi è una moda, un chilo di patate biologiche costa 20 centesimi di più, sono molto più buone, come dire, ne compri anche quelle un po' meno, le mangi con la buccia, perché si può mangiare, o carote. È chiaro che se uno vuole mangiare tutto l'anno fragole o carne o cose così, non, però diciamo queste due misure, secondo me, accettare, cercare di comprare alimenti prodotti rispettando l'ambiente e limitare la carne, già. E poi i consumatori c'hanno un peso enorme, perché sì. Perché zitti, cioè, quindi poi anche mentre parlavi mi viene in mente che quando sono venuto a trovarti a Parigi siamo andati a mangiare una tartara, allora stavo sentendo molto in colpa mentre parlavo, ma no. Era l'unica, quell'anno è l'unica che abbiamo mangiato, ma poi va benissimo andare al ristorante e mangiare la carne, non è quello, secondo me, appunto, che fa parte della nostra tradizione culinaria e infatti poi, mi piace perché è una posizione non talebana, no? Sì, dici sì. Se ne può consumare meno, sì. Poi dici, tanto c'è sempre l'esperto di diete che poi si alza e ci dice, no? È la parte ironica del tuo libro, no? Sì. Poi dici, c'è sempre un esperto di diete che dice, no, dovete mangiare carne. Solo carne, sì, sì, c'è, per cui effettivamente c'è chi ci cambia l'alimentazione. L'ultima cosa che ti chiedo è, dato che il libro nasce durante il Covid, e come il Covid però ha cambiato anche il nostro rapporto con la natura? Purtroppo niente. Uno si immagina, cioè, quanto abbiamo parlato di natura durante, vi ricordate che eravamo tutti chiusi in casa, sì. Bisogna cambiare, sì, bisogna... appena cosa, liberi tutti, no, a me mi dispera questa cosa, no, l'uomo è completamente irresponsabile, no, cioè, come dire che no, questi discorsi che veramente noi ci drogavamo, perché lì veniva da una malattia che veniva dall'agricoltura, come dire, dalla prossimità, c'entrava l'agricoltura, no? Con il fatto dei pipistrelli troppo vicini alla città, così. Quindi no, io adesso esagero, io credo che veramente abbia scosso molto, molte coscienze. Io vedo in Francia c'è un fermento enorme di ragazzi che vanno in campagna, collettivi che parlano, che immaginano come potrebbe essere il futuro. L'Italia purtroppo viviamo in una specie di bolla, no? Io la Germania non la conosco, non conosco la cosa, ma credo che anche lì ci sia molto, molto, molto fermento, e credo che il Covid abbia influito molto, a dir la verità, no? Poi appunto c'è disperante quando invece sembra che tutto sia uguale, ecco. Ma ci vuole una Greta ogni tanto per farci riflettere, o non è quello il modo? Ah no, senz'altro, Greta Thunberg, sì. Ma tutti i cambiamenti vengono così, come 68, chi è che lo prevedeva, la rivoluzione francese, chi è che lo prevedeva? Si spera che ci sia una generazione, che i giovani sono sempre meno, ma si spera che ci sia una generazione che dice, no, adesso basta, avete come 68, no? Avete rovinato tutto, adesso non si scherza più, no? Cioè, io l'unica speranza la vedo da quella, e le cose sono molto imprevedibili e anche velocissime, la storia lo sai meglio di me, come dire, le cose covano, esplodono, come è esploso il fatto della Greta, no? Che nessuno si aspettava, che c'è un po' smorzato così, ma io vedo benissimo una nuova Greta perché è una cosa che ci tocca a tutti, noi siamo inquieti per il futuro, no, come dire, anzi angosciati, cioè, no, anche quindi io direi che i tempi veramente maturano senza che ce ne rendiamo conto. Adesso siamo nella fase greenwashing, come il termine tecnico, no? Come dire, si fa finta di cambiare, no? Però a un certo punto ci si accorgerà che far finta di cambiare non è cambiare, no? Come dire. Adesso sono bravissimi, veramente se ne inventano tutti, no? per far finta di essere green. Grazie Giacomo Sartori, grazie. Se avete delle domande... Io ho una curiosità che ricorre ogni anno, c'è un giorno in cui io sento dire con oggi le risorse del nostro pianeta per quest'anno sono finite. E io rimango sì. E allora e non è la prima volta, anche quest'anno, già qualche settimana fa, dico, ma cosa vuol dire? Intanto cosa vuol dire esattamente? E dopodiché a che serbatoi noi attingiamo per andare avanti ancora tanto tempo per quest'anno? Dilapidiamo tutto come se fosse una miniera, no? Dilapidiamo. Quindi distruggiamo. Distruggiamo e prendiamo, no? E prendiamo risorse, no? Come dire. Ma no, questo può rispondere anche Alberto, meglio di me. Che no, anche Mercalli fa l'esempio della mela, no? Del torsolo di mela, che effettivamente a un certo punto si consuma, ovvio non si consuma tutte in questo momento, per cui è definitivo, però consumiamo quella parte che dovrebbe bastarci per un anno, la consumiamo molto in anticipo. Quindi in realtà, andando avanti così, ci sarà un momento in cui qualcuno non mangerà più, qualcuno non berrà più, qualcuno non riuscirà, no? Questo è il grande tema. Perché poi il problema è la quantità di persone. Quando prima parlavi dell'anno 1000 o degli anni precedenti, era un'epoca in cui quando si tagliava e si bruciava ci si spostava, perché eravamo tutti in movimento, no? Andavamo dove la temperatura ci permetteva di spostarci, dove si stava meglio per diverse ragioni. Adesso siamo così tanti che dobbiamo stare fermi, non possiamo pensare. C'è questo tema, è gigantesco. Essendo così tanti, la mela diventa un torsolo molto in fretta. Poi ovvio che noi il giorno dopo andiamo al supermercato, troviamo ancora i prodotti, però c'è il rischio che qualcuno non abbia né il supermercato né i prodotti. Su questo 9% di popolazione di cui parli tu anche nel tuo libro, insomma, adesso hai detto 700-800 mila, cioè stiamo parlando di un numero impressionante di persone che rischiano davvero di non mangiare più. Ma che problema c'è a rifornire queste popolazioni di vanghe e piccoli? Non riesco a capire. Perché non si riesca a portargli cosa ci vuole in definitiva? Ah sì, no, no, sì, non ha logica, non ha logica. Se potuto metterli, sì. La logica del potere, che se non producono niente nemmeno li sfrutta, voglio dire. Non è anche vero, come diceva prima Giacomo, che se hanno la zappa, se hanno se iniziano a fare, però mancano i soldi per comprare quello che producono, cioè non è proprio così semplice, no? Perché diamo loro modo di far partire un'agricoltura di un certo tipo, però dopo i costi chi li sostiene e chi va a comprare in quell'ipotetico negozio i prodotti? Però diciamo ci sarebbe il modo di aiutare di più, quello non c'è dubbio. Di aiutare di più. Il torso della mela. E di proteggere le loro agricolture. Il problema veramente, lungi da me di essere protezionista, però veramente hanno bisogno di, perché sono economie molto, molto fragili, che in qualche modo, e non c'è niente di male, come tutte le nostre economie sono state protette. La nostra Europa si è arricchita dopo la guerra col protezionismo, cioè come dire. No, non c'è niente di male in certi periodi di fare un argine per dire no, invece è probabilmente quella senz'altro una delle vie. Prego. Lei ha detto che la scienza ha abbandonato l'agricoltura biologica. È un'affermazione che mi è completamente nuova, magari ho capito male cosa intendeva. In quanto se non è proprio negli istituti di ricerca, nei laboratori dove si studiano, dove c'è il progresso nell'agricoltura biologica, se non ce l'ha, oltre ai contadini di propria iniziativa, dove può esserci? No, quello che dicevo è che prevalendo quest'altra, come dire, l'impostazione chimica, che veramente è stata prevalente da partire dagli anni 50-60, proprio veramente dappertutto, che ha preso il sopravvento, le visioni, i finanziamenti per le visioni differenti proprio non esistevano, capito? E qui quindi è andata avanti molto sulla base del volontariato, sullo scambio orizzontale di informazioni, che si è rivelato un metodo fantastico, perché anche quella non è che, però è anche adesso quello che riceve, ma anche in Italia, anche in Europa, la ricerca in agricoltura biologica, ci sono questi obiettivi molto ambiziosi di arrivare al 25% di superficie biologica entro però se vai a vedere i finanziamenti, e poi spesso sono finti, spesso anche qua in Trentino Alto Adige, nel senso che spesso si fanno perché non bisogna farne a meno, però non, senza credere. In quel senso, no, come dire, ha sempre avuto molto poco appoggio dalla scienza, mentre i primi a rendersi conto che hanno bisogno della scienza sono loro, no, perché per risolvere tanti problemi. La scienza è assolutamente necessaria, però la scienza intesa non come grandi sistemi, intesa come risolvere meglio questo o meglio quello. Quindi devo fare una sperimentazione scientifica rigorosa per vedere se funziona meglio i fagioli con la fila così o con la fila colà, capito? Ma anche queste ricerchine che sono considerate, che sono costose, che sono considerate non tanto importanti, no? E sono queste che servono, no? Mentre c'è un accento sempre di più sulle tecnologie, sulle cose, su veramente, ma anche un'istituzione qua del nostro, della regione che non nomino, cioè ero lì ieri. Ci sono live perché San Michele, cioè, una delle due. No, allora è un'altra. Ci è sfuggito. Dai, tanto non c'è problema. Ma no, è il museo che dedica un maggio giù, ma il museo di Trento che dedica una cosa all'agricoltura, all'innovazione in agricoltura, no? Maggio giugno c'hanno un loro spazio bellissimo, no? E dico, ah, ma chi è che l'organizza questa cosa? E mi dicono il nome della ditta, dico, orecchie su dritte, cioè è una ditta privata che vende cose, fitofarmaci, non sono fitofarmaci, perché adesso i fitofarmaci si sono resi conto che non ha grosso futuro, allora si sono spostati tutti sull'agricoltura di precisione, su altre cose, o sostituti dei fitofarmaci che sono di origine batterica o cose, no? Perché si rendono conto benissimo, continuano a venderli tutti i prodotti che sono proibiti da noi, sono venduti nel terzo mondo, ma veramente è una cosa senza nessuno, cinicissima, no? Però ecco, è come dire, e quindi organizzate questi due mesi da queste ditte con tutto rispetto per la ditta, quelli lo fanno solo per guadagnare, loro vogliono solo vendere i loro prodotti, non gli interessa niente del resto, no? E quindi un'istituzione come questa che dovrebbe essere come dire, il rispetto della natura e la comprensione della natura, si lascia completamente monopolizzare da chi la della natura la distrugge, è proprio purtroppo, io spero che a un certo punto questa situazione si chiarisca. Altri dubbi, altre cose? Scusa. Fa una seconda domanda, costa poi doppio, poi passa. No, chi fa due domande compra il libro, no? Che il signore lo sa. Tre, dai. No, lei da agronoma e scrittore, come si pone di fronte all'uso del termine chimica? Siccome... dov'è che c'è il confine tra poter definire un prodotto chimico e un prodotto biologico, se poi tutto è chimica? Ah, sì, sì. No, non è tutto è chimica, è tutto è biochimica. La chimica non esiste. Cioè nel suolo non esistono processi chimici, sono tutti biologici, tutto quello che succede nel suolo, no? Tutte le trasformazioni degli elementi in modo che siano assimilabili dalla pianta, tutta la degradazione dei pesticidi, è tutto biochimico. E quindi è vita, no? Capito? È chiaro che io posso vederlo anche dal punto di vista chimico, come dire, non penso ai soggetti che fanno questa cosa, la vedo solo come una serie di processi chimici. Però in realtà è tutto biochimico, no? È quello, e sono sistemi molto molto complicati, tutti come dire, eseguiti da microrganismi, no? Capito? No, è chiaro che dopo penso che tu pensi al chiaro, dopo per l'agricoltura biologica è delicato la cosa, perché certi prodotti sono consentiti, altri no, lì naturalmente è criticabilissima la cosa, no? Però il discorso non è quello, è proprio rispettare la natura o no, cioè, come di rispettare i processi naturali, cercare di assecondarli, o invece pensare si può fare qualsiasi roba. Ecco. Io intendevo anche più al termine comunicativo, quando si fa la politica di sensibilizzazione, le persone sono abituate ad ascoltare prodotti chimici che fanno male, quelli che non fanno male. Sì, sì. Dobbiamo continuare a usare questo termine, è l'unico che possiamo utilizzare. Sì, sì. È propriamente corretto, però è anche facile per arrivare sì. più al... Però è vero che l'impostazione agroecologica e biologica, il principio è usare meno chimica possibile, no? nel senso che cerchi che le cose si succedano da sole. È questa l'agroecologia. E funziona. Cioè, capito? Invece di pensare che tu con quest'altro prodotto e cerchi molto, però un po' di chimica, perché no? Diciamo se anche questo biologica usa dei prodotti chimici, no? Non è quello, però cercare di rispettare il più possibile gli equilibri ambientali, che vuol dire anche cercare di capirli, e poi il fatto che in ogni zona sono diversi, quello è il problema, no? Quello invece le ditte sono mondiali, quindi vogliono venderti quel prodotto lì. Non possono mettersi lì a studiare il problema da live, insomma, questo, quello. Invece l'agricoltore può fare quella cosa lì, no? Che usando meno chimica possibile, usando più il cervello, no? Quello Grazie, allora io ringrazio ancora Giacomo Sartori, ricordo che i libri si possono acquistare qui e ricordo che questo è un luogo dove si può sempre pensare, leggere e scoprire qualcosa di nuovo. Grazie.